Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM e benvenuti o bentornati a tutti e a tutte in questa 11ª puntata di Fuji Comics, sempre con la vostra Rachele Copparoni. Ore 10:32, inizia questa 11ª puntata di Fuji Comics e anche l'ultima puntata dell'anno, insomma l'ultima puntata prima delle vacanze natalizie, vacanze di Capodanno, della Befana, di tutto quanto, perché capitano tutte di mercoledì e quindi insomma faremo una lunga vacanza e ci rivedremo infine a gennaio. Ma oggi staremo comunque 2 ore insieme, sempre dalle 10:30 a 12:30 in questo mercoledì. Che giorno è oggi? 18, mercoledì 18 dicembre. E partiamo anche subito con il ricordare le varie modalità con cui potete arrivare fino allo studio di Radio Città Fujiko, diciamo virtualmente, ecco. Se volete, comunque siamo in via Zanardi 369, se volete venire anche a trovarci fisicamente, ma altrimenti potete mandare un messaggio al 333-18-09-494. Ma direi di iniziare subito con le belle notizie della settimana e questa volta riguardano la musica e non i fumetti, perché è stato annunciato proprio qualche giorno fa, ieri o l'altro ieri, non ricordo bene, ma 10 anni dopo l'addio alla band, sto parlando dei Red Hot Chili Peppers, John Frusciante ha deciso di ritornare nel gruppo. John Frusciante, lo storico chitarrista dei Red Hot, che appunto dopo 10 anni dal suo addio è arrivato l'annuncio sui social e John Frusciante finalmente tornerà a far parte del gruppo. Ad annunciarlo sui social è stato appunto il gruppo stesso, che ha comunicato l'addio al chitarrista che li ha accompagnati negli ultimi 10 anni, che è Josh Klinghoffer, spero di averlo letto bene, perdonami Josh. E appunto il messaggio è stato: Josh è un grande musicista che rispettiamo e cui vogliamo bene, siamo molto grati per il tempo trascorso insieme, ma annunciamo che con grande entusiasmo e con grande cuore che John Frusciante rientrerà nel gruppo. È appunto stato nella band dai suoi 18 anni nel 1988, per poi lasciarla una prima volta nel 1992, diciamo per problemi insomma personali e di dipendenza. John Frusciante è un grandissimo chitarrista, un grandissimo musicista, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 2010 è stato riconosciuto dalla BBC come miglior chitarrista degli ultimi 30 anni e la rivista Rolling Stones lo ha riconosciuto come uno dei 100 migliori chitarristi di sempre. E ovviamente non dimentichiamo anche che Enrico Brizzi nel 1994 si ispirò proprio a lui per il titolo del suo romanzo Jack Frusciante è uscito dal gruppo, che poi è diventato anche un film di successo. Quindi, che dire, io sono molto contenta di questa bella notizia, perché sono molto legata a questo gruppo, ai Red Hot Chili Peppers, soprattutto nella formazione appunto iniziale. E quindi ora ci andiamo ad ascoltare una canzone presa da un loro album storico, che è Californication, e questa è Other Side. Don't believe it's been slidin'. Eccoci qua, ritornati in diretta dopo aver festeggiato insieme con il riascolto dei Red Hot Chili Peppers nella loro diciamo formazione originale. Ma torniamo un po' a parlare di fumetti e questa puntata vediamo un po' che cosa ci offrirà. Visto che ormai, come dicevo all'inizio, siamo giunti alla conclusione dell'anno, bisogna un po' tirare le somme della propria vita, ma anche le somme insomma del questo palinsesto radiofonico iniziato a settembre, e siamo anche in quella stagione dell'anno in cui bisogna decidere che regali di Natale fare, questi benedetti regali di Natale. E quindi la mia proposta è proprio quella di andare a recuperare i vari consigli di lettura che ci sono stati dati nel corso di queste 11 puntate da artisti e artiste, e appunto andare a sentire, a riprendere i loro consigli di lettura che magari possono esserci utile per fare qualche regalino di Natale all'ultimo, perché si sa che un libro o in questo caso un fumetto è sempre un ottimo regalo da fare e da ricevere. Quindi sentiremo le voci di Antonia Caruso, di Edizioni Minoritarie, di Cristiana Fumagalli, di Francisca e di Sara Menetti. Anche la musica avrà un po' come filo conduttore questo anno 2019, infatti sul sito della radio, che ve lo ricordo è www.radiocittafugico.it, è uscito un articolo in cui tanti redattori e redattrici di Radio Città Fugico scrivono quali sono stati i loro album preferiti di questo 2019, sia nuove uscite appunto dell'anno, ma anche semplicemente gli album che in questo anno gli sono rimasti nel cuore. E quindi continuiamo con la musica, e sempre appunto con la musica consigliata dai nostri redattori e redattrici. Ci andremo a ascoltare gli Zen Circus, un gruppo rock italiano composto da Andrea Appino, Karim Crew, Massimiliano Schiavelli e Francesco Pellegrini, fondato nel 1994 a Pisa. Il nome del gruppo tra l'altro fa riferimento a Zen Arcade e Metal Circus, entrambi lavori pubblicati da uno storico gruppo Husker Du, anche questo spero di averlo letto almeno decentemente. Il loro album è uscito in realtà nel 2018 e si chiama Il fuoco in una stanza, pubblicato da Woodmore e da La Tempesta Dischi, però appunto è rimasto anche nel 2019 nel cuore dei nostri redattori e redattrici. Noi ci andremo ad ascoltare Catene, ed è stato anche il primo singolo e il primo video pubblicato a gennaio del 2018 dagli Zen Circus, e tra l'altro il video è stato ispirato al film A Spasso con Daisy, quindi vi consiglio di andarvelo a vedere. L'album è entrato subito in classifica alle posizioni numero 1 nella sezione vinili della classifica FIMI, oltre anche a classificarsi alla posizione numero 7 come album più venduto, sempre nella classifica FIMI però generale. Quindi ci andiamo a ascoltare gli Zen Circus con Catene. Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai. Rispondo tutto bene anche se non so chi sei. Neanche le parole, il tempo viaggia sempre solo in una direzione, mentre in quella opposta trovi solo le macerie. I vecchi lo sanno bene, lì è meglio non andare. Da quando è morta nonna, sembra una cattiveria. Mio padre è rinato, ha la faccia più serena. Forse la catena che li univa nel dolore si è spezzata fra le onde del loro temporale. Avrei voluto dirle, avrei voluto urlare davanti a tutti quanti in quella stanza d'ospedale, che finalmente lì muori senza dare amore. L'ho sempre ricevuto, ma non so contraccambiare. Mi dici ormai da tempo che ci devo lavorare, ma io più ci lavoro, più tu cerchi di scappare. Odiare se stessi per le stesse ragioni che portano i bambini ad odiare i genitori, che portano gli amanti a farsi del male per poi dimenticarsene e ricominciare. Mia madre ha fatto un sogno dove questo signore le diceva di parlarmi prima di morire. Così oggi mi ha scritto anche se non ci credi ancora. Tu sei stato il mio più bel regalo di Natale. Avrei voluto dirle, avrei voluto urlare che l'ho sempre saputo nonostante il dolore. Anche quando tornavo distrutta da lavorare, se l'amore non so darlo, se non ne so parlare, dentro una vita E questi erano gli Zen Circus con Catene. Torniamo come sempre a parlare di fumetti, ovviamente, e questa volta ne parlerò io, perché non lascerò la parola a gli artisti e le artiste, le fumettiste che saranno appunto ospiti in questa puntata, ma vorrei anche darmi un mio personale consiglio di regalo o di lettura o autoregalo di Natale, insomma, va bene un po' per tutto, perché penso sia veramente un capolavoro quello di cui sto per parlarvi. È stata una mia scoperta recente, perché appunto mi è stato regalato ad ottobre per il mio compleanno, e sto parlando di Emil Ferris con La mia cosa preferita sono i mostri. Innanzitutto, Emil Ferris è un'autrice di Chicago, dove è cresciuta, figlia di artisti, infatti la madre è una quotata pittrice simbolista, surrealista, femminista, quindi comunque è sempre cresciuta in un mondo abbastanza artistico. Si è dedicato all'illustrazione, alla progettazione di giocattoli e anche una storia di vita un po' particolare, perché nel 2001, in seguito alla puntura di una zanzara, è rimasta a lungo severamente paralizzata dalla vita in giù, perdendo anche l'uso della mano destra. Infatti, ultra cinquantenne, è riuscita a uscire da questo grande periodo di malattia, da questa situazione pesantemente invalidante, e ha finalmente deciso di dedicarsi alla scrittura e alla realizzazione grafica di questa sua prima opera di esordio, perché La mia cosa preferita sono i mostri è la sua prima opera. È stata subito accolta con grande entusiasmo, grande ammirazione da tantissimi artisti molto conosciuti, ed è stato definito veramente un capolavoro. Vi volevo un po' parlare così rapidamente della storia, anche se vi consiglio di andare veramente a cercare delle immagini che non rendono, ma vi fanno un po' avvicinare alla visione grafica di questo bellissimo fumetto. Comunque, la storia parla di Karen Reis, che è una bambina di 10 anni che vive a Uptown Chicago con la madre e il fratello. È una bambina che ha dei gusti abbastanza particolari, perché ama l'arte, i giornalini horror e i vecchi film di mostri. E un giorno, tornando a casa da scuola, apprende che la vicina di casa è morta. Tanti dicono che sia stato un suicidio, ma Karen, che comunque era abbastanza legata a questa vicina di casa, non ci crede. Cosa importante da dire è che il periodo storico in cui questo racconto viene appunto scritto è nel 1968, in pieno periodo di contestazione. E altra cosa è che questo racconto è appunto, cioè si vede direttamente in prima persona quello che Karen, quello che questa bambina di 10 anni pensa, perché noi leggiamo il suo diario segreto che viene scarabocchiato e illustrato quotidianamente da Karen. Appunto, poi la storia prosegue, perché questa bambina cerca di capire che cosa è successo alla sua vicina di casa, se veramente si è suicidata, se invece qualcuno l'ha uccisa, e scopre piano piano che la sua vicina di casa, che si chiama Hanka, è una sopravvissuta all'olocausto nazista. Scopre tantissime storie, terribili segreti che questa donna si portava con sé, e quindi diciamo che piano piano scansa l'idea del suicidio e si traveste da investigatore, da investigatrice, e cerca di capire che cosa c'è dietro tutta questa storia. In Italia è stato pubblicato da Bau Publishing, è costata veramente centinaia di ore di calligrafia, di adattamento e di impaginazione meticolosa, perché per rendere graficamente questo capolavoro bisognava stare veramente dietro a tanto tanto lavoro. E quindi vi consiglio, come regalo, come autoregalo, come preferite, ma veramente andatevi a comprare La mia cosa preferita sono i mostri di Emil Ferris. E continuiamo a proseguire questa puntata con ancora un po' di musica, questa volta veramente di una novità di quest'anno. Sto parlando dell'ultimo album dei Subsonica, Microchip Temporale, che è la riedizione dell'album Microchip Emozionale in occasione dei 20 anni dalla sua pubblicazione. Il disco contiene 14 brani dell'album originale, però rivisitati con nuovi arrangiamenti e soprattutto con la collaborazione di tantissimi artisti del panorama musicale italiano, tra cui Willy Periote, Elisa, Motta, Lo Stato Sociale, Coez, Cosmo, Achille Lauro, Ensi, Mischeta, Gemitez, insomma veramente tantissimi. Noi abbiamo già ascoltato una volta una di queste canzoni di Microchip Temporale, che era Aurora Sogna dei Subsonica insieme a Ecco Ma Cose, ed è stata la prima canzone di questo nuovo album lanciata dai Subsonica, e ora ci andiamo a sentire Liberi Tutti, Subsonica feat. Lo Stato Sociale. Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo come Steve McQueen o come il grande Clint in fuga dai Catraz. A trattare niente con chi ha già fissato il prezzo al mercato dei nostri sogni dentro i nostri giorni e per la nostra vita. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti. Dai dogmi, dalle televisioni, dalle bugie, dai debiti, da gerarchie, dagli obblighi e dai pulpiti, squagliamocela nei vuoti d'aria della realtà. Tracciamo traiettorie migliori, lasciando le galere senza più passare dalla cassa. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi. Ore 11:08, torniamo in diretta per questa seconda mezz'ora di Fuji Comics, sempre con la vostra Rachele Copparoni. E continua il nostro viaggio all'interno degli album e delle canzoni consigliate dai nostri, insomma, da tutti coloro che fanno parte della redazione di Radio Città Fujiko, quindi dai nostri redattori e dalle nostre redattrici, e continua con i Beef Clearo, che hanno pubblicato a maggio 2019 Balance Not Symmetry, album di inediti, colonna sonora del film scritto da Simon Neal e dal regista Jamie Adams, e composto appunto da 17 canzoni, e noi abbiamo appena sentito All Singing and All Dancing. Il video che accompagna il brano unisce la band che si esibisce dal vivo ad immagini del film, che racconta l'esperienza di una studentessa americana alla Glasgow School of Art dopo il suo trasferimento in Scozia in seguito alla morte del padre. Consumata dalla sua perdita, cerca di ritrovare se stessa mettendo in discussione la sua vita e la stretta cerchia di amici. Dopo un incontro casuale, una nuova scintilla la travolge e ben presto la ragazza si troverà divisa tra due mondi. E il film doveva essere presentato entro la fine di quest'anno, quindi in teoria dovrebbe essere uscito, ma devo ammettere non mi sono informata in maniera corretta, quindi non vi vorrei dire una cavolata. E prima di passare ad ancora ascoltare della musica, diciamo anche quali sono le modalità per contattarci. Innanzitutto il nostro numero di telefono con cui potete mandare un sms, potete scriverci su WhatsApp oppure su Telegram al 333 180 9494. Se per caso mentre state ascoltando Radio Città Fujiko uscite dalla zona di Bologna e provincia, non vi preoccupate, perché potete andare sul nostro sito www.radiocittafujiko.it e attivare la modalità streaming, e quindi sentirci anche in tutto il resto d'Italia. E continuiamo appunto con la musica, questa volta passiamo a una giovane cantautrice e polistrumentrista australiana, scusate, sto parlando di Natasha Tash Sultana, nata a Melbourne ma in realtà ha anche origini maltesi, e lei inizia a avvicinarsi alla musica all'età di 3 anni, quindi molto piccola, veramente una bambina, quando suo nonno le regala appunto una chitarra. Poi a causa di problemi personali, di dipendenze, diciamo che Tash sviluppa una psicosi molto giovane all'età di 17 anni e di conseguenza è costretta a sottoporsi a una terapia di recupero per un diverso periodo della sua vita. Durante però questi mesi sicuramente si rifugia molto nella musica e nel corso degli anni appunto diventa una polistrumentista, infatti ora è in grado di suonare oltre 10 strumenti, tra cui la chitarra, il basso, la tromba, il flauto, le percussioni, il sassofono, quindi veramente una cantatrice e un'artista favolosa. E altra cosa particolare di Tash è che si definisce gender queer e quindi viene chiamata con il pronome they, quindi loro, non ha una definizione di genere appunto prestabilita. E ora ce l'andiamo a ascoltare, Tash Sultana con Can't Buy Happiness. Crouching in the snow, don't wanna live. E questa era Natasha Tash Sultana, cantautrice e polistrumentista australiana. E siamo finalmente arrivati al momento di consiglio di lettura, che in questa puntata si è trasformato un po' in consiglio di regalo di Natale. Siamo giunti al momento in cui appunto sentiamo il consiglio di lettura di Antonia Caruso. Antonia Caruso fa parte di Edizioni Minoritarie, una casa editrice antifascista, antisessista, antirazzista, autoprodotta, anaffettiva e transfemminista, così si definiscono loro. E quindi andiamo a sentire un po' Antonia che cosa ci consiglia in questa volta per appunto un regalo di Natale perfetto. Il consiglio della settimana. Buongiorno a tutti, siamo qui con Antonia Caruso di Edizioni Minoritarie per presentarci un po' un consiglio di lettura della settimana. Ciao Antonia, bentornata. Ciao, grazie. Allora, che ci vuoi consigliare da leggere oggi? Ah, ne ho un bel po' di... Allora, vorrei iniziare con un libro di Coconino Fandango, che è, diciamo, la quota gender dei miei consigli, che è Poco raccomandabile, di Chloé Crouchaudet, non so se ho detto bene il cognome, che è uscito ormai qualche anno fa, nel 2013, e parla di un uomo che non vuole andare in guerra durante la prima guerra mondiale, quindi usa un travestimento femminile per nascondersi mentre lui vive con la sua compagna. Poi, quando arriva la possibilità di non essere incriminato come disertore, decide di continuare con la sua nuova identità. È un fumetto molto bello perché è scritto molto bene e non è mai banale, è preso da una storia vera, e i disegni sono molto molto belli, anche la costruzione delle tavole, dei personaggi è molto molto dinamica, e magari in altri lavori della stessa autrice sono un po' meno interessanti, ecco. Okay. Poi volevo consigliare un manga che di cui ho letto solo il primo volume, si chiama Beastars, uscito per Panini quest'anno, ed è ambientato in una scuola in Giappone, però tutti i personaggi sono degli animali umanizzati, per cui ci sono tutti i rapporti, diciamo, tra i personaggi, che sono comunque dipendenti dalla loro specie. Quindi ci sono i carnivori, ci sono gli erbivori, e c'è il protagonista, che è un lupo, che deve fare i conti, diciamo, con la sua natura carnivora e deve convivere con questi erbivori. Poi io non so come andrà avanti, ho collato solo il primo volume che è uscito a marzo, cioè inizio anno. Poi un altro consiglio è un fumetto di Alan Moore, un po' dimenticato, perché la raccolta di racconti di fantascienza che ha scritto tra l'80 e l'83 su una rivista che si chiama 2000D, e sono racconti molto brevi, li ha raccolti Magic Press qualche anno fa, quindi penso sia fuori catalogo, e il libro si chiama Futuri Incredibili e fa, diciamo, un uso della fantascienza molto molto molto ironico e anche paradossale. Secondo me tutta la serie di Rick e Morty ha preso molto da questo approccio alla fantascienza di Moore. Storie anche abbastanza, cioè, meno complesse rispetto ad altri suoi lavori più lunghi. E poi l'ultimo suggerimento è Crawl Space di Jesse Jacobs, che è uscito per Harris l'anno scorso. E Harris, tra l'altro, è una casa editrice, diciamo, relativamente recente e piccola, che pubblica delle cose fantastiche, molto molto ricercate ma molto interessanti, cioè, diciamo, che cerca molto nell'underground, nel fumetto indipendente, però anche con attenzione alle storie, perché spesso il fumetto indipendente predilige un po' i disegni a scapito della storia. Questo fumetto, che parla in pratica di una specie di mondo psichedelico che si trova dentro una lavatrice, dove ci sono due ragazzine che ci entrano, a sfogliarlo sembra appunto solo un pretesto per fare delle tavole molto psichedeliche, ma in realtà anche la storia è molto bella, e cioè, più che altro c'ha queste tavole veramente super psichedeliche, quasi geometriche. Beh, io Antonia ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e soprattutto per i tantissimi consigli che ci hai dato, e mi ci metto anch'io dentro, perché sono quattro fumetti che non conoscevo, qualcuno forse di nome, però è sempre bello insomma conoscere nuove cose, quindi grazie ancora. No, grazie a te. Grazie per la disponibilità, ciao Antonia. Ad 11 anni, quando eri piccola, aspettavi una lettera da Hogwarts per dimostrare a tutti i tuoi compagni che eri tu quella diversa da loro. Sì, ma non arrivò. E la bimba più dolce pianse lacrime amare. A volte però sembra quasi tu sia ancora lì ad aspettare. E non so cosa, non so dove, non so chi, se nessuno guarda, freghi l'uva, l'MD e disegni arcobaleni sopra Pinochet. Credi che tutte le eccezioni siano regole. Ai ai ai ai, ma giuri che tra un po' te ne andrai. Ai ai ai ai, alla fine però non lo fai mai. Sei l'antartide. Quando le amiche parlavano di sesso ergevi i muri e ti mancava l'aria. Qualcuna di loro poi rimase incinta, invece tu sempre incinta muraria. Gli uomini sai sono animali strani, come ti diceva tua nonna, in grado di dimenticarsi gli olocausti, ma quasi mai il viso di una donna. Yeah, yeah. Ai, ai, ai, ai, ma giuri che tra un po' te ne andrai. Ai, ai, ai, ai, alla fine però non lo fai mai. Sguardo perso, dentro un cielo terso, il cuore di Gedi e la testa di Kelso. E nello studio di papà mettevi dischi, Gigi D'Agostino e poi Stravinsky. E forse Dio ha creato i buchi nell'ozono per spiarti quando ti fai la doccia. E pagheresti tutti i tuoi giorni di sole per un singolo giorno di pioggia. Ai, ai, ai, ai, ai. Ma giuri che tra un po' te ne andrai. Pero no lo fai mai. Ai, ai, ai, ai, prova a rompere il ghiaccio con te. Ai, ai, ai, ai, lo sanno che tu sei la Davide. E abbiamo appena ascoltato i Pinguini Tattici Nucleari con Antartide, sempre consigliato da i vari, come dire, i vari componenti di Radio Città Fujiko, e potete andare a trovare l'articolo sempre sul nostro sito www.radiocittafujiko.it per prendere anche voi un po' ispirazione dai nostri redattori e dalle nostre redattrici e concludere con un ascolto musicale questo 2019. E prosegue anche il nostro viaggio per cercare il regalo di Natale perfetto, e questa volta ci facciamo consigliare da Cristiana Fumagalli. Cristiana Fumagalli, in arte arte sghimbescia, è una giovane ragazza brianzola, autodidatta, che si è buttata nel mondo della realtà fieristica e delle autoproduzioni. Con lei abbiamo parlato di Parental Control, di El Drama, del mondo delle autoproduzioni. Anche qua, se vi siete persi qualcosa, andate a recuperare l'articolo sempre su www.radiocittafujiko.it, dove c'è proprio l'intervista specifica a Cristiana Fumagalli. Cristiana ci ha consigliato anche lei, come Antonia, più di un consiglio di lettura, quindi anche qua tanti bei regalini da poter fare. Si tratta di Stirpe di pesce di Laura Spianelli, Odio Favolanda di Scottie Young e Il blu è il colore caldo di Julie Marot. E andiamo a sentire direttamente le parole di Cristiana Fumagalli. Il consiglio della settimana. Veniamo invece all'altra domanda. Avresti un consiglio di lettura da dare a me e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici? Qualcosa che ultimamente ti è piaciuto o che sei andata a ripescare nella tua libreria personale? Di consigli di lettura ce ne ho un fottio. Dipende, dimmi magari un argomento, dammi il là e magari riesco a trovarti qualcosa di più specifico. Magari gli acquisti che hai fatto a Lucca, visto che è una cosa recente, o qualcosa che hai letto in queste settimane, sempre di fumetti ovviamente. Beh, allora, a livello Lucca ho veramente comprato poco, ma se devo dire, se dovessi citare un nome, posso dirti Stirpe di pesce, che è il fumetto realizzato da una mia cara amica e il suo compagno. Ed è una storia, non voglio spoilerare troppo, ma è come se fosse una sirenetta in chiave moderna, ed è bellissimo, ed è una serie a puntate, quindi a Lucca ho preso il nuovo numero. Altrimenti vediamo che cosa posso consigliare, cioè, ce l'ho proprio davanti la mia libreria, che cosa posso consigliare. Vabbè, per quanto esula il discorso comunque LGBT e cose così, posso consigliare Odio Favolandia, bellissimo, di questo autore, mi pare americano. Tutto scombinato, tutto bello colorato, simpatico un sacco, ed è la storia di questa bambina intrappolata in un mondo delle favole, bellissimo. Altrimenti vediamo, se vogliamo seguire invece l'onda LGBT, io consiglio sempre comunque Il blu è un colore caldo di Julie Marot. Perfetto, direi che ci hai dato veramente tantissimi consigli di lettura, e quindi ti ringrazio. Grazie a te. Grazie mille Cristiana e buon lavoro. Anche a voi, buona giornata. Summertime and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. or take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm of this time. Fujicomics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Ore 11:34, prosegue questa undicesima puntata di Fujicomics, ormai arrivata piano piano verso la fine, perché siamo alla terza mezz'ora di questo mercoledì 18 dicembre. E siamo tornati dopo lo stacco pubblicitario e dopo aver ascoltato Lana Del Rey, che personalmente è decisamente una delle mie scoperte di questo 2019, un artista che ho imparato a conoscere un po' meglio in questi ultimi mesi proprio del 2019. E proseguiamo con le novità musicali sempre consigliate dai nostri redattori e dalle nostre redattrici, e questa volta parliamo dei Bodega. Infatti era dal 2017 che i Bodega non pubblicavano un nuovo materiale, come dire, salvo il live album dello scorso anno, Winter's Scroll. È appunto dal 2017 che Bodega non pubblicano nuovo materiale, ma è arrivato proprio quest'anno l'annuncio di un nuovo EP e anche di un nuovo singolo. L'EP, che si chiama, perché è uscito, Shiny New Model, è stato pubblicato l'11 ottobre, quindi è uscito anche abbastanza recentemente. È stato registrato al Power Station in Connecticut ed è stato prodotto dalla chitarrista della band Art Punk di New York, Madison Belding Van Damme. Noi appunto ci andiamo ad ascoltare i Bodega con Shiny New Model. You will be replaced by a shiny new model. Bodega in the aisle, bought cleaning supplies. dopo aver ascoltato questa nuova uscita dei Bodega con Shining New Model, torniamo sempre a parlare di fumetti e torniamo a parlare di un grande artista che è Cyril Pedrosa e di uno dei suoi capolavori che è Portugal. Questa volta Portugal e Cyril Pedrosa ci sono stati consigliati da Francesca, il nome d'arte di Francesca Casano, che anche lei è stata una delle ospiti di queste puntate di Fuji Comics per questa edizione 2019. Francesca, vi leggo giusto qualcosa di lei se vi siete persi le scorse puntate. Inizia a disegnare sin da piccola, gioca insomma con i colori e finché il fumetto non inizia a far capolino nel suo mondo al liceo, quando entra a far parte del giornalino scolastico proprio grazie alle strisce umoristiche che creava per fare un po' il verso ai professori, quelli diciamo più particolari, divertendo insomma tutti i suoi compagni di classe. In realtà poi Francesca si laurea in architettura e scavalca un po' la passione per il disegno e per i colori, a 29 anni, anzi qualche anno prima, si rende conto che la sua passione per il disegno, per l'illustrazione, non era terminata e quindi decide di iscriversi alla Scuola Internazionale di Comics, si diploma con il massimo dei voti e appunto inizia a fare strisce umoristiche in ogni pertugio del web e conquista tantissimi fans e tantissimi followers, e soprattutto grazie ai suoi personaggi iconici che sono il principene e la principassera. E anche qua, se veramente vi siete persi l'intervista, andate a recuperarla sul sito www.radiocittafugico.it con anche l'articolo in cui spieghiamo un po' l'attività artistica di Francesca. E ora ci andiamo a sentire proprio Francesca che ci parla di Cyril Pedrosa con Portugal, che è un altro ottimissimo regalo di Natale da fare. Il consiglio della settimana. Allora Francesca, vuoi consigliarci qualcosa da leggere, un fumetto, sia che sia un'ultima uscita che qualcosa che invece sei andata un po' a scavare nella tua libreria personale? Sì, infatti ci ho pensato un po' e diciamo ho preferito andare a consigliarvi un fumetto diciamo che mi è rimasto proprio nel cuore, di uno dei miei fumettisti preferiti, che è francese, Cyril Pedrosa, che però in Portugal, diciamo durante una sua crisi da scrittore, con appunto il blocco da scrittore, la affronta andando poi a scavare diciamo le sue origini portoghesi e quindi ricercando insomma tutti i percorsi che aveva fatto il nonno fino ad arrivare in Francia, riscopre anche se stesso e riesce poi a ritrovare anche la voglia di scrivere e di disegnare dopo un bel periodo cupo. L'ho scelto perché è scritto in modo meraviglioso, prende tantissimo, è un fumetto bello sostanzioso, bello lungo, poi l'edizione della Bow Publishing proprio l'ha stampato anche in dimensioni enormi, però veramente ne vale la pena, perché poi sia col suo tratto che col suo modo di raccontare, insomma, Pedrosa trascina parecchio, e poi perché comunque essendo parlando insomma del mestiere del fumettista, ci sono sempre rimasta molto affezionata, perché un periodo diciamo di confusione e di blocco purtroppo prima o poi capita a tutti gli artisti. Lo immagino. Ci tengo molto. Perfetto, grazie mille Francesca per questo tuo consiglio di lettura, io ti ringrazio ancora e ti saluto. Grazie a te. Ciao. Buona giornata. Ciao. Appena ascoltato i Fontaines D.C. con Television Screens. Fontaines D.C. che sono usciti finalmente con il loro attesissimo album di debutto che si chiama Dogrel, difficile da pronunciare un pochino, ma vi volevo parlare proprio della scelta del titolo del loro album di debutto, che è per la band decisamente un'indicazione, una dichiarazione di intenti bella chiara e anche un po' ambiziosa. Infatti Dogrel o Dogrel, a seconda dell'isola britannica in cui ci si trova, viene pronunciato in un modo diverso, significa comunque filastrocca. Infatti si tratta di un termine antico risalente al XIV secolo e originalmente utilizzato per denigrare i versi di scarsa qualità, considerati anche magari troppo facili, troppo banali o addirittura anche volgari. In realtà l'altro lato della medaglia di questa parola racchiude dei versi fatti un po' apposta, fatti per arrivare a tutti, fatti per scuotere le coscienze delle masse, per guidare un po' questa rivoluzione dal basso che il punk ha sempre portato con sé. E quindi insomma il titolo di questo loro album di debutto è decisamente una chiara e ambiziosa dichiarazione di intenti del gruppo. Oh, E proseguiamo il nostro viaggio all'interno dei consigli di lettura, all'interno del regalo perfetto con cui non si può fare brutta figura in questo Natale. Questa volta il consiglio ci viene dato da Sara Menetti. Sara vive e lavora come illustratrice freelance qui a Bologna e collabora con il collettivo di autori di fumetti Mamma Aiuto, con il quale ha pubblicato Fototessere e Tokyo, un viaggio illustrato, e collabora anche con la rivista online Aspirina, con la quale pubblica strisce intitolate Cose stupide che succedono a chi cerca lavoro. Aderisce anche al movimento degli Urban Sketchers, che sono coloro che vanno in giro per la città a disegnare gli scorci che più gli piacciono. Sara Menetti ci ha consigliato La storia delle mie tette di Jennifer Einer e Morire in piedi di Adrian Tomine. Devo dire che oltre ai consigli che Sara Menetti ci ha dato, vi consiglio io per prima di andare a dare un'occhiata al loro sito mammaaiuto.it, perché veramente sono un collettivo ricco di idee, anche di idee regalo, perché la stessa Sara ho visto proprio qualche giorno fa che fa queste meravigliose tazze, contenitori creati tutti da lei, disegnati da lei, che sono veramente bellissimi. Quindi se fra i vostri amici e parenti c'è qualche patito di caffè o di tè, insomma, andate anche a dare un'occhiata ai vari prodotti che Sara stessa propone. E ora ci andiamo a sentire il suo consiglio di lettura. Il consiglio della settimana. Ti chiedo un consiglio di lettura da dare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, e ovviamente anche a me. Allora, io ne avrei due, se va bene. Certo, meglio, oh. Guarda. Oh, dunque, uno degli ultimi volumi che ho letto, che mi è piaciuto moltissimo, è si intitola La storia delle mie tette, di Jennifer Hayden. È appunto l'autrice parla del rapporto che ha con col suo seno, con le sue tette, per l'appunto, fin da quando è bambina, quindi aspettare che crescano, poi vederle svilupparsi, fare i confronti con le amiche, così, e arrivare alla fine che purtroppo insomma dovrà dir loro addio, perché a causa di un tumore. Però il racconto è molto molto bello, poi io sono un amante delle storie autobiografiche e quindi l'ho letto veramente sentendomi, cioè coinvolgendomi tantissimo nel racconto, piangendo, ridendo, quindi è un racconto che consiglio a tutti, perché è molto bello e molto coinvolgente, sì, decisamente. Bene, ti rende partecipe della sua storia. Assolutamente sì. E l'altro invece è una cosa completamente diversa, si intitola Morire in piedi ed è una raccolta di racconti di Adrian Tomine, pubblicato da Rizzoli. E sono racconti brevi, ma veramente belli, chirurgici. Sondano una serie di emozioni e umanità veramente variegate e coinvolgenti. Anche questo coinvolgente in maniera diversa, però è altrettanto meritevole, secondo me. Perfetto, io ti ringrazio veramente tantissimo per la disponibilità, spero di non averti disturbato troppo nel tuo lavoro, che so che hai tantissimo da fare. Grazie, grazie ancora, ci vedremo possibilmente a Lucca Comics, sì, spero. Volentieri. Grazie mille, Rachele. Grazie mille, Sara, veramente grazie. Maybe you decide. a man in you. E chiacchiere sui 103.1. Atto secondo, scena terza. L'arroganza. L'arroganza. Se non conosci la strada, chiedi al prete, lui sa tutto. E se non mi vedi arrivare, tu manda la Filù. Ma non vado di fretta. Ho paura che scoppi una bomba, ne sono capaci. Rallenta l'uscita, mi ferma due ceffi dagli occhi feroci. Non capiscono, parlo greco antico. Andros, kakos, prosontos, ek poidon filoi. C'è paura, ha fatto il classico. Dama la pena, distingui un accento grave da un apostrofo. Pure il francese lo mastico, pure il francese un po' tossico. Vuoi sei parte, ti spongo la Gesù si finisce sempre a litigare. O ti adebi o ti deprimi, che per molti è uguale. C'è chi vive per davvero dentro dei tombini, altri vengono a suicidarsi su una Lamborghini. Per fortuna all'orizzonte c'è speranza, degli arroganti temo solo l'ignoranza. Sto venendo da te. Hai le unghie lunghe, vuoi abitare con me? D'amore non si muore, per amore ammazzo. Non avrete mai la mia patente che non ho. La viviamo in controsenso questa cosa. Conosco la strada, non la meta, quella la sa Dio. Caserta, Roma in regionale per 3 ore. Perderò te, non mio figlio, sappilo. Prima del 113 fa il 118. Chief siamo trencino, quadra son gabbasciatote. Homo alam son, che se facile tu pesce. Tu son pit, mo spesso male. hanno affoso dei te. C'è chi vive per davvero dentro a dei tombini, altri vogliono suicidarsi su una Lamborghini. Per fortuna all'orizzonte c'è speranza, degli arroganti temo solo l'ignoranza. Caserta Mantova in sei un... Ore 11:03 minuti, torniamo in diretta su Radio Città Fujiko con Fuji Comics, sempre con la vostra Rachele Copparoni per questa ultima mezz'ora di questa 11ª puntata. E come scoperta personale del 2019 non potevo che non mettere Margherita Vicario. Margherita Vicario è una giovane attrice e cantautrice italiana, precisamente romana, che nel 2019 pubblica i singoli Abaue, Mandela e Romeo, che anticipano un nuovo album di cui purtroppo ancora non si sa la data di uscita. A novembre dello stesso anno reinterpreta Noi non ci siamo di Francesco Guccini in occasione dell'uscita di Note di Viaggio capitolo 1 Venite avanti, la raccolta in cui vari artisti italiani reinterpretano le più famose canzoni del cantautore bolognese di Guccini, appunto. E in questa Romeo che abbiamo appena ascoltato, Margherita Vicario è accompagnata da Speranza, altro giovane cantante italiano che è decisamente un'altra scoperta del 2019. Il suo nome è Ugo Scicolone, in arte Speranza, ed è un rapper italo-francese nato da padre italiano e madre francese, che nasce e cresce in Francia e poi si trasferisce a Caserta. Nei suoi testi, come abbiamo appena potuto sentire, parla sia in napoletano che in francese, in italiano e anche in dialetto zingaro, quindi abbiamo appena potuto sentire il suo, come dire, plurilinguismo. Inizia appunto col rap in Francia dapprima e decide poi di dedicarsi a un progetto parallelo dal titolo Ugo della Napoli, influenzato dalla musica rumena e gitana, e poi dal giugno 2017 decide di dedicarsi al progetto Speranza, in cui esordisce con il video del singolo Sparalo, brano che ha avuto tantissimo successo e viene successivamente remixato dai Crookers. E da Speranza passiamo a Massimo Pericolo, altro decisamente rapper che ha cambiato un po' le carte in tavola del rap italiano in questo 2019, quindi ora ce l'andiamo a sentire. Massimo Pericolo, Sabbie d'Oro, insieme a Generic Animal, e appunto ora ci andiamo a sentire Sabbie d'Oro e poi torniamo a parlare un po' di Massimo Pericolo. Ne ho combinato un paio, e ho fatto l'operaio, coi soldi su un solaio, mai stato in un solarium, coi giudici non parlo, e ho preso più di un anno, l'onore nel mio caso vale più del mio guadagno, temprato dal paesaggio io che vivo qua, agitato come il lago che bagna la spiaggia. Cosa volevano insegnarmi? Baby, dopo il gabbio, quello che c'ho in più è soltanto un paio d'anni. Odio questa città stupida. Sbocco alla festa dell'unità. E ho dato troppe poche sberle, ma chi si prende tutto è pronto a uccidere per niente. Non ero pronto veramente a fare ciò che serve. Devi comprendere chi sei quando non sai chi essere. Comprendere chi sei quando non sai chi essere. Chi sei quando non sai chi essere? Io metà buono, metà uomo, quindi plato plomo. In banca con la carta oro, con la cappa d'oro. Io non so quanto costi un volo per i tropici. Tu non sai quanto cazzo costa essere poveri. I tuoi soprabiti e i tuoi soprammobili per cocainomani stanno nei caravan dei campi nomadi. Sbirro, guarda un po' più in là del tuo binocolo. Non c'è una scelta, se i bisogni te li impongono. Volevo i soldi e sono andato fino in fondo per scoprire che non vincono i più bravi ma il più stronzo. Odio tutti questi stronzi con la macchina. Voglio tanti nuovi giochi per giocarmi. E fra sta merda è magica, ci volto pagine. Mi salvo da una sfiga che non manco se l'immagina. E intanto il papi c'ha tre figli ma solo un lavoro. E infatti gli dai d'India non solo di loro. Se i miei fossero ricchi non sarei chi sono. Ma sono due falliti e senti come suono. Meglio vendere la droga che comprare views. Meglio crederci di più che credere a Gesù. Meglio guidare l'autobus che l'auto blu. Meglio avere la mia vita che la tua TV. Io lo conosco, io non lo conosco. Solo al gabbio ho fatto un mese nello stesso posto. Io lo conosco, io non lo conosco. Solo al gabbio ho fatto un mese nello stesso posto. Io lo conosco, io non lo conosco. Solo al gabbio ho fatto un mese nello stesso posto. Io lo conosco, io non lo conosco. Ho avuto mille case frate. Voglio tutte quelle cose che Gesù non vuole. Soldi e troie ma per ora solo paranoia. Voglio tutti in questa vita perché poi si muore. Che tu creda nella sfiga oppure nel Signore. Voi che andavate a scuola con i libri usati. Io che manco andavo a scuola e non li ho mai usati. Mia madre si incazzava come le altre madri. Sì però i figli degli altri erano un po' più bravi. E se almeno fossi nato in un quartiere serio, non sarei l'unico babbo senza mai un euro. E puoi essere il più bravo come il più balordo, ma se muori in un pollaio è perché sei un pollo. E qua si fa la fila e si finisce in fabbrica. Oppure si fa prima e si finisce in gabbia. Odio il loro repertorio quando sa che sogno. Piscio sull'autocontrollo e prendo ciò che è vostro. Meglio vendere la droga che comprare views. Meglio crederci di più che credere a Gesù. Meglio guidare l'autobus che l'auto blu. Meglio avere la mia vita che la tua TV. Abbiamo appena ascoltato Massimo Pericolo con Sabbie d'Oro. Massimo Pericolo, nome d'arte di Alessandro Vannetti, che nasce a Gallarate negli anni 90 e si avvicina al rap all'età già di 10 anni con l'ascolto di Eminem. Qualche anno dopo scopre il rap italiano e inizia a scrivere i suoi primi testi. Conosce Caso, un rapper storico che lavora con i ragazzi della zona a vari progetti educativi e di formazione musicale, e inizia così a registrare i suoi primissimi pezzi. Durante l'adolescenza collabora con alcuni amici e realizza una demo di 7 pezzi che però non verrà mai pubblicata. Nel 2014 diciamo che è un po' il suo anno critico, perché viene arrestato e imputato con altre 28 persone. Durante però questo periodo di detenzione, innanzitutto sceglie di cambiare il suo nome in Massimo Pericolo, ma soprattutto si dedica alla scrittura dei brani che poi oggi stiamo ascoltando. Il suo primo street video è stato pubblicato nel 2016, Baklava, e diciamo che ha partecipato dal 2016 in poi a vari eventi nei locali della zona. E in questo periodo conosce anche Speranza, un amico di Speranza, Rafi Lu, col quale stringe un'amicizia, e si incontrano a Milano anche con i Crookers. E insomma, da qui parte la sua carriera. Nel 2019 esce in esclusiva su Noisy il video ufficiale del singolo 7 miliardi, sempre prodotto da Crookers, che supera il milione di visualizzazioni in poco più di un mese e riscuote consensi dal pubblico ma anche dai colleghi, da un po' tutto il paese. Il 5 marzo esce appunto Sabbie d'Oro, che abbiamo appena ascoltato insieme ai Generic Animal, prodotto da Palazzi d'Oriente, che riceve decisamente apprezzamenti dai più grandi big della scena del rap italiana, e quindi insomma speriamo che il 2020 per Massimo Pericolo sarà un anno tanto buono come questo del 2019. Ma tornando a parlare di fumetti, non poteva non mancare l'appuntamento dell'ultima mezz'ora di Fuji Comics con il nostro Alessandro, che ha raccolto tutti gli eventi di questa settimana prenatalizia che si svolgono qui a Bologna. Quindi andiamo a sentire il nostro Alessandro e la sua selezione di eventi bolognesi che riguardano i fumetti e le graphic novel. Saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Fuji Comics. Questa è l'agenda degli appuntamenti della settimana nell'ambito dell'illustrazione e del fumetto. Questa sera alle 21 all'Arena del Sole, Kobane Calling on Stage. Il celebre fumetto di Zero Calcare, con oltre 100.000 copie vendute, arriva sul palcoscenico dando vita a un atipico documentario teatrale, poetico e allo stesso tempo comico. Kobane Calling on Stage è il resoconto del viaggio dell'autore insieme a un gruppo di giovani volontari partiti per la città simbolo della resistenza curda, Kobane, tra i difensori curdi del Rojava, opposti alle forze dello Stato Islamico, con l'intento di portare aiuti umanitari e stilare una cronaca alternativa della situazione siriana. Uno spettacolo che non spettacolarizza la guerra, ma racconta con spietata leggerezza la verità brutale di un conflitto troppo spesso dimenticato. Sempre questa sera, a partire dalle 19 al Vivaio Urbano Senape in via Santa Croce 10, la presentazione di Mambo Magica Voodoo Child di Cristiano Brignola e Federico Petelico. Ebbe a 16 anni un sacco di amici, una clamorosa tendenza ad agire di impulso e una connessione con i Gede, i Loa Voodoo della morte. Questo legame le dona la capacità di vedere cose che non tutti possono vedere e di essere posseduta da Maman Brigitte, la signora dei cimiteri. Presenta in modera all'incontro Antonia Caruso. Fino al 20 dicembre, in occasione di Billboard Bull, l'Accademia di Belle Arti festeggia i 15 anni del corso di fumetto e illustrazione con una mostra dedicata ai progetti di studenti e studentesse. Il percorso espositivo presenta i lavori di 8 allieve e allievi, tra ancora frequentanti e già laureati, che grazie ai loro progetti di tesi sono arrivati alla pubblicazione, illustrando il processo che dalla didattica arriva all'oggetto editoriale. La mostra è visitabile a partire dalle ore 9 presso Via delle Belle Arti 54. Questi erano i nostri consigli per la settimana. Io vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze e buone feste. Siamo così arrivati alla fine di questa undicesima puntata di Fuji Comics, che conclude questo anno radiofonico 2019, che per me è iniziato a settembre. Che dirvi, io veramente ringrazio soprattutto Radio Città Fujiko per avermi dato questa opportunità di iniziare questa piccola carriera radiofonica, chiamiamola così, e darmi 2 ore di spazio per parlare di fumetti e di graphic novel ed ascoltare tanta bella musica. Ringrazio anche voi, tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. Visto che siamo anche in momenti di saluti, saluto anche mio padre e mia nonna, che mi ascoltano puntualmente tutti i mercoledì da un po', diciamo, dall'altra parte adesso del mondo, no, esagerato, perché dalle Marche, però insomma ben lontani da Bologna, e li ringrazio come sempre per il supporto che mi danno. E vi ricordo ancora una volta che potete rimanere comunque connessi con Fuji Comics tramite sia la pagina Facebook che Instagram e vedere un po' che cosa bolle in pentola per il 2020. Se vi manca la mia voce, potete andare a sentire i podcast che troverete sempre sulla pagina Facebook di Fuji Comics, e altrimenti potete andare sul sito www.radiocittafujiko.it e riascoltarvi tutte le interviste e vari artisti e artiste che sono stati presenti in queste 11 puntate di Fuji Comics. Che dirvi, io vi auguro ovviamente buone feste, buon Natale, buon Capodanno, noi ci vedremo ad anno nuovo e vi auguro anche un buon pranzo per oggi, che non può mancare. E non potevo che non chiudere questa 11ª puntata di Fuji Comics con una canzone consigliata dal mio mentore numero uno, sto parlando ovviamente di William Piana, che mi ha consigliato di 07 con In the Waiting Line. Grazie ancora a tutti e noi ci sentiamo nel 2020, ciao! See you soon.